95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'da bugün geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta hayata veda eden Enriquez'in solisti ve ruhu olduğu unutulmaz grup Bando Bardo var. Bando Bardo 1993 yılında adını Brigitte Bardot'a ithafen alıyor. Floransalı bir folk rock grubudur. Yolculuklarına İtalya ve Fransa'da çeşitli kulüplerin yanı sıra sokak müziği yaparak, turlara çıkarak başlıyorlar. 1996 yılında ilk albümleri Il Circo Mangione piyasaya çıkıyor ve çok güzel geri dönüşler alıyor. 1995 yılından beri Livorno'da her yıl düzenlenen Piero Ciampi için düzenlenen Kültür Derneği tarafından yapılan ulusal bir müzik yarışması olan Ciampi ödüllerini kazanıyor 1996'da. Bu yarışmada ana yarışma yayınlanmamış şarkılar için ayrılıyor. Ödül töreni birkaç gün sürüyor ve Ekim ayında her yer Livorno'da gerçekleşiyor. Şimdi bu ödüllü albümden iki parçayla başlayacağız. Önce bir Lucia Battisti yorumu olan "Yaşınız ilerlediğinde özgürlüğünüzü bağlayacağınızı bilerek bir aile kurmayı seçeceksiniz" diyen Göksel Adamlar, Uomini Celesti. Arkasından da aynı albümden bir Piero Pelù düetiyle "Bu bir dua, para istemiyorum, yalnızca şarap, neşe ve ellerinin sıcaklığı" diyen Viva Fernandez şimdi Açık Radyo'da. La speranza spezza la tua eredità, fallimento di una vita, di coraggio e di viltà, troverai sul cammino fango e corruzione e la voglia tu avrai di sdraiarti al suolo per guardare come in un film i colombi in volo. Ti faranno fumare per farti sognare che il futuro o d'un messia presto tutto cambierà ed avrai come bando una nuova condanna. Ti diranno che il vento era il respiro di una donna per far sì che un lamento solo copra ogni tormento. E ma se ti rifiuterà di giocare all'attore, forse un libro scriverai come libero autore e tu forse parlerai di orizzonti più vasti dove uomini celesti portandoti dei figli ti diranno beh sapendo che ridendo tu a loro ti unirai. We'll be right back. posso stare in casa a pensare. Fuori è tornata la gioia di urlare. Mi troverai a girare le piazze e gridare. Viva Fernandez! Che viva Fernandez! Versa da bere ad un innamorato. Un giorno sarò ricco e ti farò regina, regina dei fiori. E versa da bere a un povero assetato. Povero da poeta, ricco come un gabbiano, vola sulla vita con la sua fantasia. Non posso stare in casa a pensare, fuori è tornata la gioia di urlare. Mi troverai a girare le piazze e gridare. Versa da bere è un albero sradicato, spostato dai venti e dalla curiosità. Un nomade in amore e in felicità. Un nomade in amore ed in felicità. Così parlava il vecchio fricchettone, il re dei maghi e delle magone. Ed è una preghiera, io non voglio denari, solo allegria, calore delle mani. Così parlava il vecchio fricchettone, il re dei maghi e delle magone. Ed è una preghiera, io non voglio denari, solo vino, allegria, calore delle mani. Uomini Celesti ve Viva Fernandez dinledik Bando Bardo'dan. İlk ödüllü albümlerinin arkasından ikinci albümlerini yayınlıyorlar. Bu albümün adı Serge Gainsbourg'un Initials BB albümünden esinleniyor. İnisiyali BB, baş harfleri BB. Şimdi bu albümden Litfiba'nın, ki bu da 80'lerde kurulan bir başka Floransalı grup, Tetsi Ganata şarkısına gönderme yapan Eva'yı dinliyoruz. Arkasından da aynı albümden sarı gözleri olup dişleri olmayan, bir süre önce bir şair olan bir adamın şarkısını, Quello che parlava alla luna, Ay'a konuşan adam, şimdi Açık Radyo'da. Cerveza, cerveza para todos. Es sabor amigo di un sesso che non è più mistero. La lingua nell'ombelico. Eva è vita, vita mia. Eva balla sul fuoco mentre Piero scrive una canzone. E la notte va avanti per gioco. Ae, ae, ae, mamma. altra legna da aggiungere al fuoco. Tamburi, violino, zigano. Eva è vita, vita mia. Eva bacia con emozione il mio sudore, la mia chitarra, mentre Piero canta una canzone. Gialli, denti non ne ha, era un poeta un po' di tempo fa. Occhi gialli, denti non ne ha, era un poeta un po' di tempo fa. Con occhi verdi recitava la libertà, ispirato dalle gambe di sorrideva, aveva uno strano viso e pieno di graffi e lotte da raccontare. E piaceva alle donne e si faceva male, ma non ha mai tradito le gambe di Nana. C'è qualcuno che parla alla luna. Oh, oh, oh, che fortuna. C'è qualcuno che parla alla luna. Oh, oh, oh, che fortuna. Che ha quel cane che parla alla luna. Hey, la, la, la. Eva ve Kuala Kepala ve Alaluna dinledik. Enrico Greppi'nin erken vefatının ardından Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan makalede şöyle bahsediyor gruptan. 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana kendisine ve ideallerine sadık kalan grup, 90'ların müzik sahnesine bir mihenk taşı haline geldi. Grubun resmi web sitesini açarken iş dünyasının en vahşi, gösterişli ve renkli İtalyan folk grubu diye yazıyordu. Erikes işte tüm bu ruhla teslim edildi toprağa. Biz müzisyenler İtalya'yı gerektiğinde işçileri alıp gerekmediğinde geri verecekleri büyük bir torbaya dönüştürmemek için savaşmalıyız. İş yerindeki mücadelelerini, başardıklarımızı hatırlamalıyız. Bu eşiklerin altına inmek zorunda değiliz, dedi. Şimdi ben de Bardo'nun müthiş parçası Manifesto bizlerle olacak. Bugün çalışmıyorum, bugün giyinmiyorum, çıplak kalıyorum ve tezahürat yapıyorum. Kutunun dışındayım, belirgin bir şekilde ben farklıyım. Moda gider, ben kalırım. Çıplak kalıyorum ve tezahür ediyorum. Ortaya çıkıyorum, bir hareket yapıyorum. Bugün gökyüzüne bakıyorum. Resto nudo e manifesto diyen Manifesto ile Banda Bardo 2016 yılındaki Filagosto Festivali'nden canlı bir kayıtla şimdi Itabella'da. Resto nudo e manifesto e faccio un gesto. Manifesto. manifesto. Ne facciamo uno molto più forte per il fonico di palco. Sì, sta! Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Ancora si sale per le luci di Lois. Particolare, uno di quegli applausi in cui ci si guarda negli occhi fra vicini e si fa sì, cazzo, sì, se lo meritano proprio. Ed è un applauso a tutti quelli, a tutte quelle che questa sera hanno cantato, hanno sorriso, grazie! Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Resisti, Fina. Manifesto'yu dinledik bir konser kaydından. Bando Bardo 1999 yılında ilk canlı albüm kaydı olan Barbara Tour'u yayınladı. Bu albümde de kendine yer bulan Fransa'daki göçmenlere, göçmen politikalarına ithafen yazılmış bir derdi olan bir parça şimdi bizlerle olacak. Nuh'un gemisinin dışında kalanları anlatan Son Papier şimdi Açık Radyo'da. Fall, I don't so fall. Papier dinlemiştik. Bir önceki şarkıyı da içeren bir albüm olan ikinci canlı kayıt albümlerini 2001 yılında yayınlıyorlar. Semir Lasso Colasso albümü. Şimdi Bandobardo'dan Aysız Bir Gecede En Mutlu Benim diyen, aşka ve şansa soğuk ve ekmeksizken şarkılar söyleyen sarhoş bir adamı anlatan Ubriaco Canta Amore dinliyoruz. Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno. E per la gente nervosa, in attesa del lieto fine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. È una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. Alla gente distratta, in attesa del lieto fine, lui risponde con il vento: io sarò più contenta. Una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna. Canto Amore dinledik Bandobardo'dan. 1998 yılında hava solunamaz hale geldiği için kızgın ve yorgun olan güneşin herkesi terk edip gittiğini anlatan Güneşin Grevini yayınladılar. Bu parça daha sonra bir festivale dönüştü. Hatta geri dönüşümü teşvik amacıyla atık malzemelerden yaptıkları enstrümanlarla yeniden yorumladı grup. Parçada şöyle diyor: bir gün güneş geldi ve dedi ki, öyle olsun. Eğer beni gerçekten istemiyorsan ben gidiyorum. Ona biraz para teklif ettiler. Ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Güneş birkaç adım attı ve parlamayı kesti. La Chopera del Sole, Güneşin Grevi, şimdi Açık Radyo'da. Un giorno venne il sole disse, e così sia. se proprio non mi volete, allora me ne vado via. Io non vi chiedevo tanto né croci né altare, ma nemmeno un mondo in cui non posso respirare. E tutti risposero: no, ti prego, non te ne andare. Senza di te, sai, non possiamo più abbronzare e diventare belli con creme da spalmare, dimenticando tutto in un'estate al mare. La la la la la la la la la. Ci fu niente da fare, il sole fece quattro passi e smise di brillare. Ma l'uomo del miracolo dalla televisione entrò in tutte le case stravolto d'emozione. Ci ho già pensato io, disse, una grande occasione, pagatevi, sarà dato un sole di cartone. Ci ho pensato io, disse, no, quasi un milione, pagatevi, sarà dato un sole di cartone. Opera del Sole dinledik. Bando Bardo'dan. 2000 yılına geldiğimizde 3. stüdyo albümleri olan Mojito Football Club yayınlandı. Biz şimdi bu albümden bir parça dinleyeceğiz önce. Pianeta Terra diye bir parça. Bu parçada yeşil ve siyah uzaylıların istilasını anlatıyor ve nasıl uzaylı çocukların kitaplarında dünyalardan bahsettiğini söylüyor bize. Arkasından da 2002 yılındaki 4. stüdyo albümleri olan Bondo Bondo'dan bir parça dinleyeceğiz. Bu albümden sonra grup İspanya, Fransa ve İsviçre'de bir turneye çıkıyor ve bu vesileyle de uluslararası tanınırlığını arttırıyor. Bu parça da, bu Bondo Bondo'daki parça da Non Sarai Mai, Asla Olmayacaksın isimli bir parça. Bunda da şöyle diyor: sen asla bir meydanın adı, bir ırkın sembolü olmayacaksın. Sen sadece işin için güleceksin. Sen asla güneş gözlüklü bir şarkıcı olmayacaksın. Sen sadece seni fark etmeyen işinde güleceksin. Pianeta Terra ve Non Sarai Mai şimdi Açık Radyo'da. Successo davvero, sono scesi da un cielo verde e nero, e noi lì, mi ricordo ancora, a dire lo sapevo, e ora è ora. E ora sì, che si sta bene, conquistati dallo spazio senza catene, obbligati a balli tribali. animali per la gioia dei figli spaziali e sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non sa stare tra la gente e sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non si vuole bene per niente. Ora siamo specie protetta, sappiamo anche amarci senza fretta e abbiamo capito che ci conviene restare calmi e comportarci bene, restare calmi e comportarci bene. E sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non sa stare tra la gente. E sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non si vuole bene per niente, ma non si vuole bene per niente, non si vuole bene per niente. Thank you. Pianeta Terra ve Non Sarai Mai radyonuzdaydı. 2004 yılına geldiğimizde Trapassi Avanti, 3 Adım İleri albümü yayınlandı. Aynı yıl Massimo Cotto ile birlikte Vento in Face başlıklı bir otobiyografik DVD yayınladılar. Bu DVD'de hayranlarından gelen mesajlar, çeşitli sahne arkası görüntüler de vardı. Ama bu yılın bir diğer önemli unsuru Patty Bravo'nun Nick Unique isimli albümünde yaptıkları bir düetti. Şimdi biz bu düeti dinliyoruz. Patty Bravo ve Bando Bardo'dan geliyor. Tristezza Moderna şimdi Itabella'da. Stupido gioco d'amore, killer dell'umanità. Cento chitarre pagane fanno la fila per me. Trema mia bel Valentino, quel mio nobile istinto rifiuta con sdegno il patetico slancio dei tuoi sette spiriti. Trema mio bel Valentino, il mio nobile istinto rifiuta con sdegno questo patetico slancio dei tuoi sette spiriti. Noi melodrammatici, gli assunti di un amore che va tra cuore e città, da Sudafrica in poi al museo degli eroi. Dell'umanità c'era uno stemma romantico, c'era un bell'uomo con me. Entrano in due, tu chi sei, che diavolo sei? Tristezza in persona, Valentino lo sa, tristezza moderna. Meglio un'anonima gelida notte. Questo patetico slancio dei tuoi sette spiriti, noi meno drammatici, assunti di un amore che va per cuore e città, da Sudafrica in poi al museo degli eroi. Assunti che va a cuore e città, Valentino lo sa, Valentino lo sa. Tristezza Moderna dinledik. Bando Bardo ve Patty Bravo düetiydi. 2006 yılında Fuori Orario albümünü yayınladılar ve beklediklerinden daha iyi geri dönüşleri olan maddi anlamda bir albüm oldu bu. Arkasından 2008 yılında Ottavio yayınlandı. 14 şarkılık bir albümdü bu. Şimdi Ottavio albümünden Bella Ancora ile Bando Bardo Itabella'da. Sogno americano, bionda come il grano, una vita fragile. Mary si mette il suo vestito, come una fiamma, come un bandito. La gente pensa male, guarda che animale, una preda facile. Mary ride nella parrucca, sorda al tuono e alla sua bocca. All'America in giardino, all'America con sé, oh, oh, balla ancora. balla ancora. Balla con la luna, balla con il sole, balla senza musica. Per la pioggia, per la tempesta, per un sorriso da una finestra. La gente pensa male, tu non sei normale, hai smarrito l'anima. Mary cambia sesso ed età per un sogno di libertà. E l'America in giardino, e l'America è per te, oh, oh, balla ancora, Marilyn, balla ancora, Marilyn, balla ancora, Marilyn. Ankara dinledik. Ben de Bardo'dan. 2018 yılında grubun doğumunun 25. yıl dönümü vesilesiyle Semiri Lasso Colasso adında bir parça yayınlıyorlar. Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Daniele Silvestri ve Mark Gatze yer alıyor. Aynı yılın Aralık ayında Nelson Mandela Forum içinde 25. yıl için bir konseri, yine bu kez Modena City Ramblers'ın da katıldığı, Pierre Pelin'un da katıldığı bir konserle kutluyorlar. Her zaman çok farklı mevzuları kendine dert edinen, her konuda derdini müzikle ifade eden çok kıymetli bir gruptu bu, Banda Bardo. Ve maalesef 14 Şubat'ta grubun sesi, grubun ruhu herkes hayata gözlerini yumuyor. Biz bu sebeple bu hafta Bando Bardo dinledik. Hem de ona bir selam gönderelim dedik. Şimdi Bando Bardo'nun az evvel bahsettiğim Semiri Lasso Colasso parçasıyla kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo il rosso. Se la terra mi chiama non posso restare chiusa tra quattro mura, ho premura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, attenzione, concentrazione, come dei ragazzi con dei garçon. L'età mi sta inchiodando, sembra torma, sul palco corre salto Decathlon. Se mi metto a partire mi incasso. le difese di un sireno bastano. Con chi nato al PC fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso con l'asso di spalle, gioco tutte le carte. Dei semi rimasto con l'asso di spade, lotto sulle mie gambe. Pepe Anna della banda Bardo, sempre palla nella banda Marro. Siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlon Brando. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione amico mio, concentrazione, viva Dio la posta in gioco. Come sai non è da poco e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti. Non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, ti rilasso, ti